2024 di Enrico Pagliarini. La scorsa settimana avevamo iniziato la puntata con una notizia che arrivava dal Giappone. Lo facciamo anche questa settimana perché la polizia di Tokyo ci informa che ha lanciato una pattuglia di droni con l'obiettivo di intercettare ed eventualmente catturare droni che volano in città senza alcuna autorizzazione. Questi droni sono dotati di una rete, una vera e propria rete come quelle da pesca, che eventualmente nel momento in cui un drone non autorizzato volasse in zone pericolose della città, ma in generale sulla città, bene, viene catturato con questa rete. Anche in Giappone, come in Italia e in quasi tutta Europa, esistono norme che limitano l'uso dei droni. Anche in Italia ci sono stati casi, e purtroppo ci saranno casi, di persone incoscienti che fanno volare i droni, che oramai si acquistano anche per poche centinaia di euro, in zone non autorizzate o in generale in zone pericolose. Bisogna essere in aperta campagna, in luoghi deserti, e generalmente se si usano questi strumenti per gioco, le normative a cui si fa riferimento sono quelle degli aeromodelli, che hanno delle zone dove possono volare in tranquillità. Per quanto riguarda i professionisti, c'è un regolamento dell'ENAC che giustamente regola tutte queste attività. Benvenuti o bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 radio24.it. Questa sera parleremo di alcune novità che arrivano, una proposta che arriva dall'Europa che riguarda la portabilità dei contenuti digitali. Parleremo anche di banda larga, di diffusione della rete internet in Italia, ma iniziamo, come sempre facciamo, dalle notizie che selezioniamo durante la settimana. In breve, le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dai nuovi dati Audi Web che sono stati pubblicati in settimana. Ad ottobre si sono collegati ad internet in Italia 29,5 milioni di utenti, pari al 53,4% degli italiani da 2 anni in su. Cortana, l'assistente virtuale di Microsoft lanciato finora sulle piattaforme Windows Phone e Windows 10, è da questa settimana disponibile anche per Android e iOS, per il momento solo negli Stati Uniti e in Cina, ma è molto probabile che arrivi poi la disponibilità anche negli altri paesi, Italia compresa. Parliamo spesso di connected car, cioè dell'auto connessa ad internet, ma nell'ambito del più ampio fenomeno della Internet of Things, perché anche l'automobile è una things, una cosa, un oggetto che si connette alla rete internet, allora ogni cosa potenzialmente potrebbe essere connessa, quindi ogni oggetto e anche ogni componente dell'automobile. La giapponese Bridgestone ha annunciato che presto alcuni pneumatici saranno dotati di un sensore messo all'interno in grado di rilevare vari parametri come le accelerazioni, le vibrazioni a cui è sottoposto lo pneumatico e quindi poi di mappare la strada che viene effettuata. I dati vengono illustrati su un display, questa è la versione base, diciamo così, ma potranno anche essere condivisi con i sistemi di bordo dell'automobile e anche, questo è bellissimo, condivisi con altri automobilisti. E magari uno fa tutti i giorni una strada, il sensore suggerisce all'automobile alcune caratteristiche del percorso e questi dati potrebbero essere messi a disposizione di altri utenti che, quando arrivano su quella strada, anche senza averla mai percorsa, possono utilizzare lo storico dei dati di altri veicoli. E se pensiamo ai milioni di veicoli che circolano sulle strade, quanti dati possono essere messi in condivisione? Ma questo è solo uno dei tanti esempi. A proposito di Big Data, di Internet of Things, eccetera, eccetera. Digital News. A proposito di assaggi dell'auto del futuro, ancora più concreto e molto più vicino è l'annuncio fatto da Deezer, che è uno dei più importanti sistemi di musica in streaming. Da questa settimana Deezer è disponibile per le automobili che hanno CarPlay, che è il sistema operativo di bordo che si integra con gli iPhone. Il servizio, quindi Deezer, diventa così accessibile al cruscotto dell'auto. E questo non è solo un assaggio delle automobili del futuro, ma potremmo dire che è anche un assaggio della radio del futuro, perché soprattutto per quanto riguarda il settore musicale, i servizi di streaming sulle auto connesse saranno un competitor molto importante per le radio tradizionali. Digital News. Parliamo di smartphone e di sistemi operativi. 2 o 3 anni fa abbiamo vissuto un periodo di tentativi per scardinare il duopolio Android e iOS. Ne abbiamo parlato spesso, ricorderete le nostre puntate dal Mobile World Congress, abbiamo parlato dei vari sistemi operativi, ci hanno provato in primis Microsoft con risultati finora non brillantissimi, fa molta fatica Microsoft a entrare in questo mondo della mobilità, ci hanno provato anche alcuni player molto più piccoli, alcuni outsider, gente che si occupava di software. Allora, due purtroppo stanno per abbandonare il mercato, si tratta della finlandese Yolla Mobile e anche Firefox, che ha annunciato in settimana che il proprio sistema operativo basato sulle web app, quante volte abbiamo parlato di web app, però fino adesso non si è visto molto, questo sistema operativo non avrà un futuro, quindi sia Yolla che Firefox usciranno molto presto dal mercato. A proposito di quello che dicevo poco fa sulle automobili del futuro, il più grande vincolo, il più grande freno nella diffusione delle tecnologie anche sull'automobile è il tasso di sostituzione delle auto. Se noi pensiamo agli smartphone, parliamo di una cosa che viene venduta nella sola Italia nell'ordine dei 15-20 milioni all'anno. Poi dipende se includiamo solo gli smartphone oppure anche i telefoni normali, però ormai sono quasi tutti smartphone. Se parliamo di televisori stiamo parlando di una cosa di 4-5 milioni, se parliamo di automobili parliamo di poco più di 1 milione, 1,3 milioni nel 2014, vedremo nel 2015, forse c'è qualche segnale di miglioramento, però capite molto bene che per affermare una tecnologia e renderla di massa in alcuni mercati come quello dell'automobile ci vorranno un po' più anni rispetto agli smartphone, che hanno naturalmente un prezzo d'accesso molto più basso, sono uno strumento completamente diverso, ma questo è forse uno dei vincoli maggiori, perché a proposito di auto connesse siamo, diciamo, alla vigilia di una nuova generazione di automobili che saranno connesse in buona parte, se guardiamo a tutte le gamme di veicoli. Molto più là nel tempo arriveranno i veicoli a guida autonoma, anche se oggi, se parliamo di sistemi di assistenza alla guida, parliamo di automobili che quasi guidano da sole già oggi. Dunque, adesso partiamo da Bruxelles, perché in settimana è arrivata una proposta, ci sono alcune notizie positive, alcune speravamo fossero positive, forse siamo rimasti un poco delusi, e parliamo di portabilità dei contenuti. Quante volte noi, andando all'estero, vogliamo vedere un contenuto in streaming al quale siamo abituati nel nostro paese? Non sempre è così, e quindi l'Unione Europea sta cercando di porre rimedio nell'ambito di una riforma del diritto d'autore in tutta Europa. Innocenzo Genna, uno degli esperti di 2024, esperto di regolamentazione nell'ambito delle telecomunicazioni, anche di internet, regolamentazione europea. Innocenzo, bentornato a 2024. Salve, grazie per l'invito. Allora, partiamo da quelle che potrebbero essere buone notizie, perché siamo ancora in una fase preliminare, diciamo così. Dunque, si tratta di una proposta che consentirà ai consumatori europei che hanno acquistato un contenuto online su un loro supporto mobile, quindi uno smartphone o un tablet, di continuare a usufruire di questo prodotto quando si trovano all'estero. Quindi il classico caso è di chi fa turismo, che quindi vuole continuare in vacanza, ad esempio, ad usufruire dei prodotti editoriali online che ha comprato. Può anche essere di persone che sono in giro per lavoro o financo persone che stanno fuori purché tengono la loro residenza ancora in Italia, non so, pensi ai studenti Erasmus. Sì, quindi contenuti acquistati nel paese di residenza che possono essere utilizzati all'estero, perché oggi molto spesso, quasi sempre, succede che se uno appunto si collega a internet, vuole vedere, che ne so, anche una trasmissione in diretta su un canale televisivo italiano e si trova all'estero, salta fuori una bella finestrella che dice per questioni legate al diritto d'autore e agli accordi internazionali sui contenuti, questo contenuto non lo puoi vedere. Se io sono all'estero e mi collego ad un computer fisso, funziona questa possibilità? Poi immagino che molti dei particolari saranno definiti nei prossimi mesi, in base poi al percorso che questa proposta farà all'interno delle istituzioni europee. Ma se mi collego ad internet da un computer vale? No, non vale purtroppo, diciamo, la proposta in questione riguarda solo i casi dei contenuti che sono caricati su un supporto mobile, solo su, quindi smartphone o tablet sostanzialmente. Per tutto ciò che riguarda un computer che è collegato in una linea fissa, quindi quello che normalmente uno ha a casa, lì il problema del geoblocking rimane inalterato. Per dire un'esperienza molto recente, qui da Bruxelles, pochi giorni fa, volevamo utilizzare la RAI online per vedere in diretta l'apertura della Porta Santa, il Giubileo, e invece ci è arrivata una schermata in cui c'era scritto: mi dispiace, da parte della RAI, ma noi non possiamo, per problemi di copyright, farti vedere questa trasmissione a te che sei in Belgio. Incredibile, certo. Paradossalmente un utente italiano che si fosse trovato in Italia, avesse questa accessibilità a Rai Online, se si fosse spostato con uno smartphone tablet, attualmente avrebbe ancora bloccato, ma con questo regolamento in futuro non verrà più bloccato, perché potrà continuare ad usufruire dei contenuti che ha caricato, di cui può accedere sul supporto mobile quando si trova provvisoriamente all'estero. Quindi bisogna distinguere queste due tipologie. Sì, Dall'altro, colui l'utente in mobilità, che quindi si muove con un supporto mobile, dall'altro l'utente fisso, cioè che sta con un computer collegato alla linea fissa. Sì. Il primo aspetto vi è, diciamo, questa proposta che mira ad aiutare l'utente. Dall'altro invece è buio pesto, cioè non cambia niente. Sì. Senti, ti faccio una domanda di carattere tecnico, ma penso che ci sia già una risposta. Se mi collego ad una rete Wi-Fi con il mio supporto mobile, cioè dipende anche proprio dal tipo di connessione o è legata al terminale? Può riguardare entrambi, però normalmente quando io ho un tablet, il tablet viene riconosciuto in quanto tale. Quindi anche se io vado all'estero col mio tablet e lo collego via Wi-Fi, viene considerato uno strumento mobile, e quindi in futuro con questa proposta avrò diritto a continuare ad usufruire di certi servizi. Certo. Se io invece vado all'estero col mio laptop e mi collego a una rete fissa, quello non è considerato uno strumento. Sì. Oggi questo problema del geoblocking, questo blocco legato alla geografia, ai confini nazionali, lo si può aggirare, e sono molti i consumatori che lo fanno, con dei programmini che fanno una VPN, quindi una Virtual Private Network, che quindi, quando io sono, che ne so, in Germania, fanno credere alle reti che io poi mi trovi in realtà in Italia. Ci sono dei programmini anche molto semplici che possono essere installati, quindi si bypassano questi problemi. Però in effetti, in una logica di digital single market, così come la definisce l'Unione Europea, questa cosa non ha più senso, e invece andiamo verso ad un futuro molto probabilmente in cui si manterranno buona parte di questi blocchi legati alla geografia. Sì, l'aspetto negativo di questa proposta è che questo problema della segmentazione geografica, quindi per gli utenti che si collegano da fisso verso un contenuto che viene prodotto all'estero, ecco, questo aspetto non si vede nessun cambiamento. Lì vi è un blocco molto forte dell'industria dei contenuti, che è molto ascoltata dai governi e dai parlamenti, perché ogni industria dei contenuti nazionale difende la propria posizione col proprio governo, e nessun governo se la sente di scoraggiare la propria industria nazionale dei contenuti, quindi la propria cultura, il patrimonio culturale, eccetera. Però poi alla fine tutte queste posizioni nazionaliste sommate creano un problema enorme, perché è ancora da dimostrare che questi prodotti europei distribuiti in questo modo abbiano dei vantaggi particolari rispetto a un sistema magari più liberale, Però la realtà è che l'industria dei contenuti europei continua a essere sovvenzionata, continua a faticare nei confronti dei prodotti, ad esempio, americani. E Sì, questo tra l'altro quindi, è un vantaggio anche per gli americani da un certo punto di vista. beh, per gli americani è uno strano regalo perché il geo blocking, viene applicato anche ai prodotti americani in Europa. Quindi vuol dire che le grandi major americane, quando vendono un film, riescono a venderlo separatamente in ogni paese. Facendo così, hanno più profitto. Quindi loro ringraziano, sono molto contenti. Ma allora, prima domanda, com'è che loro non fanno questa cosa negli Stati Uniti? Perché negli Stati Uniti nessuno si permetterebbe di vendere un film in maniera diversa in 50 paesi, cioè verrebbero presi a sassate. Certo. Secondo, qual è la giustificazione per imporre il geo blocking a questi prodotti americani in Europa? Perché non è che noi dobbiamo farlo per proteggere l'industria americana o la cultura americana, non è nostro compito. Allora, il fatto che la segmentazione geografica sia dovuta, necessaria per proteggere l'industria europea, forse è una scusa, forse non è la vera ragione, Sì, certo. altrimenti per gli americani non si applicherebbe. Senti, quali sono i tempi e qual è l'iter di questa proposta? Allora, per quanto riguarda la proposta sulla portabilità, che comunque è una buona proposta, insomma, dobbiamo essere contenti, io penso che ci vorranno almeno un anno per l'approvazione, poi ci sarà una vacatio legis di 6 mesi. Vi saranno degli aspetti da definire, perché la proposta prevede che tutti gli utenti in mobilità provvisoria possono utilizzare questo diritto, senza un limite di tempo, quindi può essere una persona che fa un viaggio di un weekend, può essere un businessman che sta una settimana, ma potrebbe anche essere uno stagiaire Erasmus che sta fuori 3 mesi, a condizione che tenga la sua residenza in Italia. Io ho l'impressione però che durante le discussioni in Parlamento e Consiglio l'industria dei contenuti tornerà su questa proposta cercando di limitare il periodo di fruibilità all'estero, quindi mi immagino che Sì. Sì, diranno sì, lo puoi fare, ma solo per 10 giorni. una Insomma, cosa del genere questo. l'abbiamo già vista e conosciuta nel caso del roaming, che è già stato approvato definitivamente, però appunto non è vero che è stato eliminato completamente il roaming. Ci saranno dei limiti oltre i quali non potremo andare, se no appunto uno si compra la SIM in Lituania e poi la usa in Italia spendendo molto, molto meno. Sì, allora, infatti anche qui c'è questo rischio, però bisogna dire che la proposta della Commissione europea da questo punto di vista è chiara e cristallina, cioè parla semplicemente di presenza provvisoria all'estero, quindi da questo punto di vista non pongono limiti temporali. Vedremo se saranno altre istituzioni o altri, diciamo, proponenti che cercheranno di limitare questo diritto. Invece, per quanto riguarda il geo blocking da fisso, per quello non c'è nessuna proposta, quindi la situazione non è destinata a cambiare, si percepisce una difficoltà della Commissione a proporre qualche cosa, appunto perché si teme che poi il partito contrario sostanzialmente dell'industria dei contenuti, dei governi, dei molti parlamentari, boccerebbero questa proposta. E quindi da quel punto di vista non ci sono novità. E quindi gli utenti utilizzeranno quel marchingegno Sì. Esatto, di cui tu parlavi, le VPN, oppure si daranno alla pirateria, che è molto triste, esatto. soprattutto perché stiamo parlando di utenti che non vogliono essere pirati, stiamo parlando di persone che hanno soldi da spendere su internet e vorrebbero comprare dei prodotti legali su internet, ma per via del geo blocking non lo possono fare. Quindi per poter vedere ciò per cui volevano pagare, devono andarsela a prendere piratato. Sì. E questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, in Italia abbiamo dovuto attendere molti mesi prima di vedere arrivare Netflix, ma questo è uno dei tantissimi esempi che potremmo fare, quando Netflix era già arrivato in altri paesi dell'Unione Europea. Se venisse eliminato questo geoblocking, questo blocco geografico, una volta che un servizio viene lanciato in un paese europeo, sarebbe disponibile per tutti gli altri paesi europei. Dopodiché è vero che questo servizio potrebbe in un primo momento non avere le lingue dei paesi dove ufficialmente non è stato lanciato, però io potrei abbonarmi, magari vedere le cose in inglese oppure in tedesco, in francese, eccetera, eccetera. Insomma. Sì, sì, e poi la stessa, diciamo, un prodotto europeo Netflix appunto potrebbe avere dei sottoprodotti a seconda della lingua e della cultura, sì. Ma sarebbe comunque un prodotto europeo, poi sarebbero i clienti a scegliere quello che vogliono. Un esempio è quello di un, non so, di un residente belga che si trova in Italia, che magari avrebbe l'interesse ad avere il Netflix belga, perché vi è la traduzione in fiammingo, perché ci sono delle serie belghe che in Italia non si vedono. Sì, sì. Il belga in Italia non può farlo, deve per forza vedersi il Netflix italiano con le specificità, sì, del pubblico italiano. Oppure fa la VPN. Quindi, cioè, o la VPN, oppure, però, sì, oppure fa qualche marchingegno strano. Esatto, sì. Esatto. Molto bene, io ringrazio Innocenzo Genna per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie, arrivederci. E visto che stiamo parlando di cose europee, tra l'altro noi perdiamo tanto tempo a discutere, a dibattere i politici italiani su quello che fa o dovrebbe fare il Parlamento locale italiano, senza poi accorgerci che molte delle cose che ci cambiano anche la vita arrivano dall'Europa e non sempre tramite direttive che poi devono essere recepite e magari ogni Stato ci mette un po' del suo, ma sempre più spesso con regolamenti. I regolamenti sono direttamente applicabili. Allora, dal 9 dicembre è in vigore un regolamento europeo che riduce il tetto massimo delle commissioni interbancarie per le carte di credito e i bancomat, cioè le carte di debito. Allora, il nuovo tetto è 0,3% per le transazioni con carta di credito, 0,2% per i pagamenti con carte di debito. La normativa si applica ai circuiti bancari, quindi Visa, Mastercard e anche Pago Bancomat, che appunto viaggiano attraverso le banche. Gli altri circuiti di carte di credito viaggiano su altri sistemi di pagamento che sono autonomi, quindi non sono soggetti a questa nuova norma. Però con Visa, Mastercard e il Bancomat fai una bella fetta del mercato. Ricordiamo che si tratta di commissioni interbancarie, quindi sono quelle che servono per regolarsi tra le banche, ma poi a cascata questa riduzione dovrebbe poi arrivare anche agli esercenti, che dovrebbero quindi essere più disponibili ad accettare anche i sistemi di pagamento. Quindi cadono tutta una serie di alibi sia per le banche per continuare a tenere magari le commissioni un po' alte, sia per gli esercenti che a volte dicono no, io il bancomat non ce l'ho perché le commissioni sono troppo alte. In realtà, già oggi, senza l'arrivo di questo regolamento che è entrato in vigore questa settimana, quindi vedremo poi nei prossimi mesi quali saranno le ricadute sul mercato, però già oggi in realtà ci sono dei sistemi che permettono ai commercianti di ridurre le spese rispetto a quelle che vengono fissate dalle banche, perché naturalmente spesso l'interfaccia per magari avere il POS è la banca, perché si ha il conto corrente bancario, si ha un rapporto con la banca, ma ci sono società alternative che offrono sul mercato POS fisici, quindi proprio dove si inserisce la carta di credito o di debito, oppure anche con il nuovo sistema contactless, quindi la carta che si appoggia solamente. Ci sono anche dei POS che si connettono allo smartphone, che quindi fanno diventare lo smartphone un sistema di pagamento. Insomma, ci sono tantissime soluzioni. Giusto per fare un esempio, questa settimana ho incontrato i ragazzi di Paymove, che è una società che si occupa proprio di questi sistemi di pagamento, e ne ho parlato con Michele Serpico. Sentite che tipo di commissioni ci sono sul mercato. Attualmente siamo, per i piccoli esercenti, intorno all'1%, per i merchant che ci utilizzano e che hanno un transato medio-alto, diciamo intorno ai 5.000 euro mese a salire, possiamo scendere con delle commissioni per le carte di credito intorno allo 0,90, per le carte di debito possiamo arrivare anche a uno 0,60. Carte di debito è il bancomat. Sì, carta di debito, quindi le prepagate classiche come PostePay o le prepagate delle banche o anche il bancomat, sì. Ci sono dei costi fissi di abbonamento, di acquisto del terminale, del POS? Beh, il cliente è libero di acquistare il terminale, quindi di non pagare canone, oppure noi abbiamo il motto più transi meno paghi. Per transate superiori ai 5.000 euro il POS viene concesso in comodato gratuito, altrimenti c'è un piccolo canone da pagare che è intorno agli 8 euro al mese. Ci sono altri player come voi in Italia? Perché questo è un settore interessante? Allora, è un settore interessante perché l'Italia è molto indietro rispetto agli altri paesi europei per la gestione della moneta elettronica e per lo scontrino medio, che è ancora molto elevato, e anche per i volumi. Ma player italiani come noi ce ne sono davvero pochi. Siamo un paio di player come noi che sono indipendenti al sistema bancario. Tutti gli altri non sono italiani. Se uno va sul mercato effettivamente trova molte proposte, quindi diciamo che gli alibi stanno mano a mano che passa il tempo, che la tecnologia si diffonde, cadendo, e poi anche grazie a regolamenti europei come quello che abbiamo commentato. Molto spesso ci sono altri motivi che frenano l'utilizzo di questi sistemi. Magari molti si possono immaginare anche quali sono i motivi. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Tra poco parliamo di banda larga, ci sono alcune novità che riguardano il 2015, alcuni progetti che si concludono, ma siamo ancora in attesa invece dei nuovi progetti. Il Presidente del Consiglio Renzi aveva detto già dall'autunno partiranno i primi bandi e i primi lavori, e invece qui siamo oramai alle porte dell'inverno e alla fine dell'anno e non è ancora successo nulla. Ne parliamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e Twitter e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente, tutto gratis, al servizio podcast di 2024. Ci sono molte applicazioni per smartphone che gestiscono i podcast, voi scegliete all'interno dei vari strumenti, all'interno di queste applicazioni 2024, fate una ricerca con Radio 24 2024 e poi vi abbonate in quel modo, avete la possibilità settimana dopo settimana, appena il file è disponibile, di averlo a disposizione sullo smartphone, quindi lo potete ascoltare sia scaricandolo ma anche in streaming, magari dipende insomma da quanto volete consumare banda in mobilità, oppure volete sfruttare magari il wifi dell'ufficio o della casa. Prima di proseguire con il nostro prossimo ospite, una notizia molto interessante che arriva da Roma, perché la prima sezione civile del Tribunale di Roma il 3 dicembre ha emesso una sentenza che è la prima in assoluto in Italia che si basa su una pronuncia della Corte Europea di Giustizia dello scorso anno. Ricorderete che a maggio la Corte di Giustizia Europea aveva detto, ne abbiamo parlato molto, quindi è un caso sicuramente noto, conosciuto, dice: in presenza di notizie vecchie, non aggiornate o che non rappresentano più la persona interessata, è possibile chiedere la rimozione dei link a queste notizie da un motore di ricerca. Quindi il motore di ricerca è obbligato in alcune situazioni e se ci sono alcune condizioni a rimuovere i link. Naturalmente le notizie rimangono in rete, ma si fa molta più fatica a trovarle se non si possono raggiungere dal motore di ricerca. Allora, la prima sezione civile del Tribunale di Roma dice però che non c'è nessun diritto all'oblio, quindi in questo caso l'obbligo del motore di ricerca non esiste, se le notizie di cui si chiede la cancellazione sono recenti, di sicuro largo interesse, relative a una persona che esercita un ruolo pubblico. Se invece della cancellazione si sollecita la correzione di queste notizie, allora la domanda va fatta non al motore di ricerca ma ai gestori dei siti dove sono pubblicate queste notizie, quindi giornali quotidiani oppure qualsiasi altro sito internet. È interessante perché è la prima volta che c'è una sentenza che si rifà a questa pronuncia della Corte Europea di Giustizia. E attenzione, quando si parla di ruolo pubblico di una persona, non pensiate che sia relativo solo a persone famose, note, a politici. No, questo caso è relativo ad un avvocato che si è rivolto al tribunale e il Tribunale Civile di Roma dice anche un avvocato ha un ruolo pubblico, e quindi direi tutti i professionisti hanno un ruolo pubblico, ma se noi allarghiamo il quadro molto probabilmente il numero, la percentuale di persone che possono essere definite con un ruolo pubblico è molto molto vasta, quindi è una sentenza sicuramente molto interessante. Dunque, adesso parliamo di banda larga. Ricorderete che ad aprile avevamo parlato di un progetto per portare la fibra ottica in Valsabbia, in provincia di Brescia. sfruttando contributi europei ma anche fondi che la comunità montana aveva accantonato in modo sicuramente molto lungimirante già dal 2011 proprio per costruire questa infrastruttura che finalmente è stata realizzata, è stata inaugurata questa settimana, tutta in tempi previsti, non ce n'è stato nessun ritardo, 300 km di fibra ottica che collegano 200 edifici pubblici, municipi, scuole, altri edifici pubblici, che serve naturalmente per portare anche connessioni ad internet nelle case, nelle aziende, negli uffici, e stiamo parlando di connessioni da 30 megabit in su, quindi stiamo parlando di banda ultra larga come la si definisce oggi. C'è stato un bando per assegnare in totale 4,1 milioni di euro, un bando che è stato vinto dalla Intred, che è una società di telecomunicazioni che ha completato questa opera in circa 8 mesi. Allora, questo è uno dei tanti interventi che sono stati fatti in tutta Italia nelle zone cosiddette a fallimento di mercato, dove cioè gli operatori privati non vanno perché o c'è poca popolazione, poche aziende, ci sono grandi distanze, ci sono difficoltà anche orografiche. Quindi se guardiamo al panorama nazionale, cioè abbiamo ancora moltissimi problemi sulla nostra rete internet, ma molte opere, soprattutto in queste zone, sono state fatte. Ricordiamo che si tratta di interventi per portare quella che viene definita banda ultra larga. Consideriamo che la copertura della DSL oggi si avvicina al 100%, anche se in alcune zone le connessioni in ADSL sono molto stentano molto, sono ancora molto basse, però diciamo che se guardiamo a livello nazionale la copertura con questa tecnologia è piuttosto elevata. Oggi si sta ragionando in termini di banda ultra larga per aumentare la capacità delle reti. Allora, lo schema è il seguente, semplificando molto: esistono fondi pubblici, spesso europei. Quante volte sentiamo dire non abbiamo utilizzato i fondi europei? Bene, molti di questi fondi sono destinati alla banda larga, vengono messi a disposizione di operatori che poi realizzano questa infrastruttura. La gestione di questi bandi e il coordinamento dei lavori è affidato a Infratel, che è una società del Ministero dello Sviluppo Economico. Questa settimana ho incontrato Salvatore Lombardo, che è l'amministratore delegato di Infratel, per parlare di molte opere che sono state realizzate negli ultimi anni, ma anche del futuro, visto che da tempo si parla di questo progetto del governo per la banda larga, ma per adesso non abbiamo visto moltissime novità. Ma parliamo dei risultati che sono stati ottenuti in questi ultimi anni. Beh, nell'anno 2015 è una tappa importante perché vanno a completarsi una serie di progetti regionali finanziati con finanziamenti pubblici della Commissione Europea. Mi riferisco al progetto Molise, un progetto Campania, un progetto Calabria. Parliamo di oltre 300 milioni di euro di investimenti pubblici realizzati in queste tre regioni per fornire un servizio a banda ultra larga nelle aree cosiddette bianche, aree a fallimento di mercato dove gli operatori non andavano a investire. E Infratel in questo caso ha un ruolo importante. Ecco, qual è il ruolo di Infratel in questo tipo di infrastrutture, in queste zone, ma in generale poi in tutta Italia? Infratel ha un doppio ruolo: da una parte è il soggetto che fa il monitoraggio dei piani di copertura e indirizza una serie di attività riguardanti l'incentivazione degli operatori tramite gara per realizzare questi investimenti infrastrutturali. Dall'altra parte Infratel stessa è un soggetto che realizza infrastrutture pubbliche, di proprietà pubbliche, e che vengono messe a disposizione degli operatori per dare servizi ai cittadini. Se guardassimo al territorio nazionale, qual è il livello di copertura dell'infrastruttura banda larga e banda ultra larga? Beh, gli operatori privati preferiscono investire in aree densamente popolate, per cui le città più grandi sono sicuramente molto servite. Viceversa, gli investimenti pubblici finanziati con fondi europei sono stati essenzialmente realizzati nelle regioni del sud, per cui dalla Campania, la Calabria, la Sicilia, la Basilicata e la Puglia hanno goduto di grossi investimenti infrastrutturali finanziati con fondi europei, per cui paradossalmente oggi si trovano a un livello di copertura maggiore rispetto a regioni come il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia o il Piemonte. Stiamo parlando di che livelli di copertura? Il livello di copertura della Calabria raggiunge quasi il 90% di copertura della popolazione al 2018, dato dell'ultimo censimento che facciamo con i piani degli operatori, mentre alcune regioni non arrivano al 20%. E quando parliamo di infrastruttura di questo genere, cioè il 90% di che tipo di infrastruttura? Immagino non fibra ottica magari. Sì, parliamo di una rete di nuova generazione che quindi prevede una connessione in fibra ottica almeno fino al cabinet. Un cabinet dista mediamente tra i 200 e i 300 metri dall'unità abitativa singola, ma abbiamo monitorato un livello di copertura interessante sulla fibra dentro casa o dentro l'edificio, che in Italia raggiunge una media del 22% rispetto agli anni passati, comunque quasi un raddoppio delle unità immobiliari già cablate in fibra ottica. Voi siete una società che, come dicevamo poco fa, fa bandi di gara per poi fare infrastrutturare all'operatore, ad un operatore, e molti di questi bandi di gara negli ultimi anni sono stati vinti da Telecom Italia, in altri casi fate voi direttamente l'infrastruttura. In entrambi i casi la rete rimane di proprietà pubblica o no? No, nel primo caso, dove l'operatore viene selezionato tramite una procedura di gara pubblica, l'operatore cofinanzia l'investimento e diventa proprietario di quella rete. Nello stesso tempo però è un soggetto vigilato con cui è possibile monitorare la possibilità di accesso ad altri operatori, prevedere quanti ricavi fa l'operatore su quella rete sovvenzionata ed eventualmente correggere questi ricavi per un sovracompensazione, un extra guadagno che l'operatore può avere, che viene restituito all'amministrazione pubblica, la cosiddetta clausola di clawback. Viceversa, nel modello di intervento diretto, le infrastrutture rimangono pubbliche, sono gestite da soggetti pubblici e vengono messe a disposizione di tutti gli operatori. Ma se oggi il Sud paradossalmente ha più banda larga rispetto al Nord, allora forse poi questo mercato dove investono gli operatori privati senza finanziamento pubblico nel Nord poi non c'è così tanto, se no ci sarebbe più banda larga anche al Nord, dove appunto ci dovrebbe essere il mercato. Ma il grosso del problema è il gap economico necessario per realizzare questi investimenti. Nelle cosiddette aree bianche, aree dove non va nessun operatore, parliamo di investimenti dell'ordine di 4 miliardi di euro. Quindi il mercato è interessante. Già fatti? No, da fare. Per cui il mercato è interessante per tutti, anche un comune da 300 abitanti è un mercato interessante per chiunque operatore voglia andare lì. Il problema è che per raggiungere quei 300 abitanti occorrono investimenti importanti e non tutti gli operatori sono disposti a realizzarlo, soprattutto quando non c'è la certezza del ritorno dell'investimento. Ecco, però tornando alla domanda di prima, significa che forse queste zone a fallimento di mercato o aree bianche dovrebbero essere estese a più aree, forse anche al Nord? Sicuramente, in questo momento sono maggiormente al Nord. Parliamo di livelli di comuni molto piccoli, dai 4.000 abitanti in giù, sono tutti in aree bianche, sono essenzialmente al Nord, Piemonte e Lombardia in primis. Quindi diciamo che in passato si è investito più al Sud pensando che ci fosse necessità, adesso si è raggiunto al livello paradossale che è rimasto indietro il Nord. No, non è una questione di opportunità, il vantaggio di fare investimenti al Sud è legato alla possibilità di spendere fondi comunitari che sono disponibili solo al Sud, per cui regioni come la Campania, la Calabria, la Puglia stessa, la Sicilia dispongono di importanti stock di finanziamenti finanziati dalla Commissione Europea che addirittura andavano a essere persi con la vecchia programmazione e che con il nostro intervento siamo riusciti a reindirizzare su servizi a banda ultra larga. Questo stesso livello di stock di investimenti pubblici nel Nord non c'è mai stato. Lo sarà possibile con la nuova delibera CIPE approvata ad agosto, che prevede la possibilità di coprire tutte le aree bianche del paese, comprese quelle del Nord. Ecco, parliamo del futuro. Visto che sono mesi che si dice arrivano i bandi, poi non so se saranno bandi quelli con cui verranno erogati questi soldi per fare infrastrutture. Comunque stiamo parlando di infrastrutture che richiederanno alcuni anni, perché stiamo parlando, il traguardo è 2020-2022, cioè in teoria 2020, ma probabilmente si andrà anche al 2022. Ecco, cosa succederà nei prossimi anni, ma soprattutto quando si partirà? Beh, il 2015 è stato un anno molto intenso di attività, con l'approvazione del piano fatto a marzo dalla Presidenza del Consiglio, la delibera CIPE che finanzia gli interventi nelle aree bianche avuta ad agosto e la successiva negoziazione che stiamo per completare con la Commissione Europea, che prevede le regole per gli interventi pubblici in queste aree bianche. Adesso la prossima tappa e la scadenza è marzo, che è la data con cui la Commissione Europea ci rilascia il regime d'aiuto che ci consente di poter partire in tutte le aree bianche del paese secondo i modelli che abbiamo definito con loro. Quindi cosa significa? Prossima estate o addirittura il prossimo autunno? Beh, nel frattempo una serie di interventi sono già in corso. Nell'anno 2016 Infratel realizza con modalità di intervento diretto oltre 700 comuni in diverse regioni italiane con finanziamenti già disponibili dalla vecchia programmazione comunitaria europea. Questi 700 comuni saranno realizzati tutte nell'anno 2016 e con la nuova delibera CIPE andiamo a realizzare i successivi bandi che a questo punto potranno partire entro l'estate dell'anno prossimo. Senta, se una comunità, quindi un comune, un piccolo comune, ha, come sappiamo, ce ne sono tantissimi ancora oggi, un grave problema di digital divide, si può attivare o tutto questo grande progetto arriva dall'alto e viene gestito dalle regioni, da Infratel, dal Ministero, insomma dallo Stato in generale? No, guardi, questo è un progetto nazionale che richiede lo sforzo di tutti per poterlo realizzare negli anni definiti prima dal programma del 2020. In particolare i comuni hanno un ruolo assai importante perché nella gestione dei permessi, nella gestione delle autorizzazioni allo scavo, nell'utilizzo delle infrastrutture che molti comuni hanno già che si possono sfruttare, possono accelerare o ritardare, viceversa, lo sviluppo della banda ultralarga nel paese. Noi, per esempio, su questi 600 comuni dell'anno 2016 stiamo facendo una call con tutti i comuni per definire un modello di accordo comune per comune per avviare rapidamente i cantieri secondo le tecniche più innovative senza creare disagio per i cittadini. Però se un comune non è in un'area bianca può far poco. No, i comuni che non sono in aree bianche, cosiddette aree grigie, aree dove c'è una copertura parziale del territorio o di un solo operatore, saranno oggetto di un intervento successivo che si sta negoziando adesso con la Commissione europea e che prevediamo di far partire dopo l'estate dell'anno prossimo. Le faccio due ulteriori domande per allargare un po' il quadro. Si dice, anche molti esperti di reti in generale, non solo di telecomunicazioni, dicono il modello migliore sarebbe quello di avere un soggetto unico, neutrale, che poi dà l'accesso alla rete agli operatori di telecomunicazioni che vendono il servizio. Non avrebbe senso trasformare Infratel in questo soggetto nazionale? Ma è un modello che è molto utilizzato per esempio nell'energia elettrica, nella società del gas, il modello Terna sostanzialmente di un'infrastruttura pubblica che è messa a disposizione di tutti gli operatori che accedono a tariffe regolate. È un modello che non crea grossi problemi agli operatori in quanto regolamenta solo la parte infrastrutturale passiva, non la parte di servizio, lasciando libero l'operatore di fornire questo servizio. Sul ruolo di Infratel lascio dire ai miei azionisti. Certo. Posso capire. L'altra domanda che le volevo fare riguarda le tante reti pubbliche che esistono, spesso sono in fibra ottica, che sono state costruite negli ultimi anni dalle regioni e ci sono un sacco di queste reti che vengono, non dico non utilizzate, ma molto poco utilizzate, sottoutilizzate. Non si può far nulla, non si sta facendo nulla? In questo momento Infratel ha contribuito alla gestione, allo sfruttamento di queste reti in quasi tutta Italia. Parliamo di reti costruite dalla Lombardia alla Sicilia che vengono messe a disposizione di tutti gli operatori. In questo momento la rete realizzata da Infratel di backhauling per il legamento delle aree in digital divide è tutta perfettamente utilizzata sia da operatori di rete fissa, da operatori mobili e anche da piccoli operatori locali che la stanno utilizzando per dare un servizio prettamente locale su un ambito regionale. Esistono poi altre realtà di carattere comunale, municipalizzate, ad esempio, che hanno delle reti in fibra ottica e che rappresenta un potenziale enorme da sfruttare nel momento in cui parte l'intervento nelle aree cosiddette grigie. Quindi ci sono ancora un sacco di reti non utilizzate? Sì, assolutamente sì, ma non solo reti di telecomunicazioni, ma anche reti infrastrutturali come reti della pubblica illuminazione. Parliamo di reti elettriche disponibili per la posa dei cavi in fibra ottica. Credo che un buon progetto deve sfruttare queste infrastrutture esistenti almeno fino al 60-70%, realizzando gli scavi solo veramente dove è necessario. Nella nostra versione podcast trovate l'intervista in versione integrale. La giornata dell'8 dicembre, giorno inaugurale del Giubileo, è terminata con una spettacolare proiezione di immagini sulla facciata di San Pietro. Probabilmente alcuni di voi le avranno viste su internet o anche in televisione. Immagini della natura, di animali anche, per sensibilizzare i cittadini, ma soprattutto chi a Parigi deve decidere il futuro del pianeta in termini di inquinamento. Allora, quella proiezione è stata fatta con alcune decine di proiettori video. Stiamo parlando di proiettori video, sostanzialmente simili a quelli che esistono nei cinema. Oramai tutti i cinema hanno proiettori video, non esiste più la pellicola, ma se vogliamo sono parenti molto vicini anche ai proiettori video che conosciamo nelle nostre case, nei posti di lavoro. Naturalmente tecnologie molto più evolute, ma sostanzialmente quella è la modalità con cui appunto c'è una lampada e si proietta una immagine. Questo set di proiettori è sincronizzato, ci sono dei computer, dei software che sincronizzano tutte le immagini, sono sincronizzati fra loro per creare un'immagine enorme. Quindi ammettiamo che un proiettore possa illuminare una parete 10x10, un grande proiettore video, ci sono proiettori video giganteschi che costano decine di migliaia di euro, ammettiamo, giusto per fare un esempio, che possano illuminare una parete 10x10. Bene, per illuminare una parete di 100 metri per 20 servono 20 proiettori, andiamo a spanne, poi in realtà i numeri non sono così semplici, però per farci capire. Allora, l'edificio, gli edifici in generale, poi pensiamo addirittura ad una chiesa, ha delle pareti o dei profili non regolari, non è che è come il telo che abbiamo a casa oppure il telo del cinema, e non è nemmeno detto che i proiettori possono essere messi alla giusta distanza, con un'angolatura ottimale, perché molti di questi luoghi, pensate, se proiettiamo su un monumento, non sono stati pensati come il cinema per posizionare un proiettore, quindi bisogna un po' adattarsi. Ma anche in questo caso ci sono software particolari che deformano, comunque adattano l'immagine affinché sulla parete venga vista in modo opportuno. Insomma, anche in questo caso la tecnologia sta aiutando molto. Allora, questa è una proiezione diciamo semplice di un'immagine, ma si può fare molto di più. C'è una evoluzione di quello che si può fare con un set di questi proiettori, è la mappatura dell'edificio. Che cosa significa? In questo modo si possono sfruttare le architetture esistenti, pensate alle colonne di San Pietro o anche di un altro monumento, creando delle immagini che si adattano ai profili architettonici con effetti molto particolari e molto spettacolari, molto affascinanti. Sono cose che si vedono, ma non tantissime, però diciamo ci sono molti spettacoli oramai che utilizzano queste tecnologie. Ne ho parlato con Alberto Azzola, che è direttore commerciale di STS, che è uno dei più importanti service in Italia per grandi eventi, pensiamo a concerti, cerimonie particolari, insomma eventi di questo genere. Ma fondamentalmente il mapping è una tecnica che mi permette di rilevare le dimensioni e le caratteristiche di una facciata e di adattare il tipo di immagini che voglio proiettare a questa superficie. Adattarle in che modo? Posso produrre immagini ad hoc, ad esempio se sono su un edificio storico dove ho delle colonne, posso decidere di produrre delle immagini tipo una pianta rampicante che si compone su queste colonne e poi diventa un albero sul resto della facciata, o insomma tutto ciò che può dar spazio alla creatività legato poi al tipo di contesto in cui siamo a lavorare. Alcune delle cose più spettacolari che sono state realizzate sono state fatte magari sulle superfici di chiese dove i rilievi fatti o con dei laser o attraverso dei file di CAD esistenti di questi edifici sono state realizzate immagini ad hoc per le guglie, per le porte, piuttosto che le sculture che ci sono sulle facciate, e il fatto di vedere proprio queste immagini così dettagliate in quei punti precisi rendono il tutto ancora più spettacolare. Senti, negli ultimi anni che cosa è cambiato dal punto di vista tecnologico? Stiamo parlando di proiettori simili a quelli che vengono utilizzati al cinema, ma per fare tutto ciò non serve solo il proiettore, ci sono dei software particolari, ci sono delle professionalità. Negli ultimi anni cosa è cambiato? Ma fondamentalmente la tecnologia ha permesso di aumentare la potenza luminosa dei videoproiettori e quindi questo permette poi di realizzare superfici sempre più ampie. I software, sia interni dei videoproiettori piuttosto che software per la messa in onda, che permettono di adattare, di fare tutta una serie di modifiche al warping, si chiama la tecnica che mi permette di correggere i trapezzi, rendere l'immagine dritta anche su superfici magari curve. Quindi ciò che è cambiato fondamentalmente sono i software che permettono la realizzazione e la potenza luminosa. E dal punto di vista delle professionalità cosa è cambiato? Se prima il mio videomaker si occupava solo di creare un clip piuttosto che uno spot o un video istituzionale, oggi parecchi videomaker hanno preso un po' come sfida la capacità di realizzare anche video per questo tipo di installazioni. Beh, se siete curiosi potete andare a cercare alcuni video a proposito di video mapping, quindi di mappatura di queste architetture, di spesso sono palazzi, edifici, spesso storici. Dicevo, se siete curiosi per capire ancora meglio, perché vedendolo ci si rende conto ancora meglio dello spettacolo che si può realizzare, andate a cercare Video Mapping Ralph Lauren, che è uno degli esempi, ma video mapping in generale, ma se andate a vedere Ralph Lauren è un esempio molto interessante, molto bello e affascinante di quello che si può fare con una proiezione su un edificio. E in effetti chi era a Roma e chi ha visto questo spettacolo ha detto che è stato molto bello e molto affascinante. Chiudiamo così questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Il nostro programma va in onda venerdì tra le 22 e le 23 e la domenica tra le 13.30 e le 14, ma come sempre in podcast. Aggiungo due parole sul tema della banda larga. Abbiamo sempre in sospeso con Enel un'intervista per capire che cosa farà questa società della rete, che è attiva e operativa dal primo di dicembre. Enel, come sapete, sarà un player importante, almeno in alcune parti del territorio italiano, e quindi insomma speriamo nelle prossime settimane di offrirvi questa voce importante per capire cosa succederà all'interno del grande progetto banda larga, che appunto si muove molto lentamente. C'è questo tassello molto importante che è rappresentato da Enel con questa nuova società, dovrebbe diventare un player neutrale rispetto agli operatori che poi vendono il servizio direttamente al cittadino. Bene, è tutto per questa puntata, vi ricordo che andiamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica tra le 13.30 e le 14, ma sempre in podcast. Ringrazio gli ascoltatori che continuano a scriverci ricordandoci e spiegando come ci ascoltano. Ci sono, diciamo che nella classifica, quelli che fanno sport sono ancora i primi in classifica, quelli che si spostano tra casa e il lavoro, a volte ci sono persone che devono fare dei viaggi anche piuttosto lunghi, oppure quelli che lo fanno una volta alla settimana, una volta ogni due settimane, e fanno anche un viaggio piuttosto lungo e fanno una scorta di puntate di 2024 e se le ascoltano una dietro l'altra. Allora, nella classifica sono entrati anche quelli che ci ascoltano mentre fanno le pulizie, comunque i lavori di casa, e anche alcuni che cucinano. C'è anche questo elemento molto molto importante, speriamo insomma che ascoltando 2024 le pulizie vengano meglio e anche le cose che preparate in cucina vengano cucinate in modo adeguato e opportuno per i vostri ospiti o per la vostra famiglia. Ci risentiamo la prossima settimana, ancora un grazie. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.